I numeri innanzitutto sono 12.000 i malati in Italia, 1.000 le vittime, 1.200 i guariti. E in Cina oggi si registrano solo 8 nuovi casi e 7 morti, a testimonianza che se ne può uscire. Dalle regioni e dall'opposizione ci sono critiche al decreto, si chiedono regole più rigide, mentre in alcune fabbriche scattano degli scioperi spontanei per la paura. E preoccupano i mercati con le parole di ieri della presidente della BCE, Christine Lagarde, che spingono al rialzo lo spread, affossano le borse e persino il presidente della Repubblica Mattarella scrive parole stizzite contro un'Europa che deve essere solidale e non ostacolarci. Dal lato dello sport, finalmente si inizia a prendere coscienza che il problema c'è. Salta il primo GP di Formula 1, quello in Australia, la UEFA è vicina alla sospensione delle coppe, a rischio ovviamente anche l'Europeo e le Olimpiadi. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Eccoci, care ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti in questo venerdì 13 marzo, sono le 6:31 minuti e 20 secondi. Ultima puntata di questa settimana, una settimana intensa, una settimana dura, ci prepariamo ad un fine settimana molto simile in realtà al resto della settimana. Si sta in casa, state a casa. Con Peter Bescape in regia, Giorgio De Luca in assistenza e redazione, ovviamente con voi al 349-238-6666, sms, messaggi su WhatsApp, anche audio, la vostra voce, fatecela sentire che ce n'è particolarmente bisogno in questi giorni. Oggi è una puntata particolare di 24 Mattino per tanti motivi, è tra gli altri il fatto che oltre ad essere in diretta come di consueto sulla pagina Facebook di 24 Mattino e su quella di Radio 24, siamo anche in diretta da un'altra parte. Partecipiamo in questa fascia oraria dalle 6:30 alle 7 a questa lunga maratona, una serie di passaggi di testimone tra colleghi delle radio, ci hanno preceduto quelli di RTL, seguiranno quelli di Caterpillar sulla Rai, si chiama L'Italia chiamò. Sono volti e voci dell'Italia che resiste appunto al coronavirus, una diretta streaming che trovate sul canale YouTube del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, collegato ad una raccolta fondi per la protezione civile. Tutti i dettagli li trovate là naturalmente. Se volete trovare facile il link e volete seguire la diretta su YouTube, andate sul mio profilo Twitter, Simone Spetia, e ho appena twittato il link alla diretta da poco, lo trovate là. Da cosa iniziare? Beh, insomma, gli elementi sono tanti, lo avete sentito, le parole di Christine Lagarde che dice, insomma, non siamo qua a chiudere lo spread e spinge al ribasso i mercati, molto molto criticata. Ci sono tutte le preoccupazioni che riguardano la durata di tutto questo e le misure restrittive da prendere. Come avete sentito, l'opposizione e le regioni chiedono qualcosa di più. Gli operai, i metalmeccanici in particolare, ne parleremo più avanti, iniziano a protestare. Alcune fabbriche iniziano a fermarsi con tassi di assenteismo che sfiorano, anzi che superano il 50% in luoghi del paese che sono il centro della nostra produzione. E poi ci siamo tutti noi che siamo dentro a questa vicenda, che a volte non sappiamo che fare, si può uscire per fare una passeggiata, non si può uscire, cosa facciamo con i figli a casa, come ci organizziamo. E c'è la paura. E fatemi iniziare un po' dall'aspetto umano, almeno per oggi, perché anche da queste parti, anche qua, anche chi vi parla, insomma, non è immune. Il tentativo è quello di guardare un po' avanti, cercare di immaginarci come saremo, se può esservi utile questo esercizio, è quello che faccio tutti i giorni perché questa vicenda spaventa tutti, come saremo tra 5, tra 10 anni, magari seduti sulla nostra poltrona di casa, pensare a questo momento come uno spartiacque, quel momento che ha segnato le nostre vite e le ha cambiate. è difficile guardarsi in prospettiva in questo momento, quando penso soprattutto ai tanti medici, infermieri, personale sanitario che in questo momento ci ascolta e che magari è in viaggio, sta andando verso l'ospedale, si prepara ad un turno massacrante. A tutti voi che temete di perdere il lavoro, a quelli come partite IVA e autonomi che forse già adesso non stanno lavorando e temono questa crisi. Siamo in tanti ad essere preoccupati. Però forse possiamo guardare in prospettiva e dire: bene, questa è una cesura, un cambiamento radicale nelle nostre vite, dopo le cose andranno bene. Tutto andrà bene, sono i foglietti, gli striscioni che trovate in giro per le strade e che in questo momento sono per noi quasi un inno. E questo forse può essere l'inno di questi giorni, pur con le difficoltà, le preoccupazioni e l'attenzione a quello che succede. E iniziamo da San Fiorano, provincia di Lodi, ex zona rossa. Mario Ghidelli ne è il sindaco. Buongiorno sindaco. Buongiorno a lei. Buongiorno. Uscito da una zona rossa ci è rientrato immediatamente, e però, o in una zona arancione per così dire, e però dalle vostre parti le cose dopo la chiusura vanno molto meglio, no? Sì, siamo usciti da una zona rossa e forse è stato il più grosso errore che si potesse mai fare. Era più importante in quel momento ampliare la zona rossa subito senza aprirla e in modo tale che forse avremmo contenuto un po' di più il virus. Ecco, noi abbiamo fatto questi 15 giorni che sono stati impegnativi, però sono stati anche importanti, perché si vede che adesso il trend è leggermente diminuito da noi, ecco. Perciò vuol dire che quello che è stato fatto in questi 10-11 comuni è stato molto importante. Aprire la zona rossa come è stato fatto per alcuni giorni è stata una tragedia, perché il trend è aumentato al di fuori della zona rossa. Naturalmente, si sarebbero dovuti prendere dei provvedimenti prima e più forti, Ghidelli. Lei come la vede l'ipotesi? Perché insomma, molto si è parlato del fatto che per esempio la Lombardia debba fare come si è fatto da voi nelle vostre zone, insomma Codogno e dintorni, e però è vero anche che parliamo di una regione di dimensioni enormi, con delle esigenze enormi, insomma è oggettivamente più complicato. Cioè, noi portiamo spesso l'esempio di Wuhan, però ricordiamoci che Wuhan è più o meno il 3% del territorio cinese, e quindi fare un'operazione di questo genere insomma su un territorio che sarà il 10-15% del territorio italiano è oggettivamente un po' diverso. Sì, è vero, però è anche vero che se non si dà uno scossone forte a questo virus, nel senso che bloccarlo non ce la finiamo più, perché noi adesso stiamo fermi fino a quando? Dicono i primi giorni di aprile, io non ci credo proprio che sarà così, perché se il trend continua a aumentare, come dicono che il trend massimo arriverà a metà aprile, vuol dire che abbiamo davanti ancora un bel po' di tempo, forse perché dopo tutti sono bravi a dire la loro. Forse era meglio chiudere veramente, dire: signori, fate a casa un mese di ferie tutti, state a casa tutti, ma però dopo siamo a posto, ecco. Invece così non sapremo mai se saremo a posto. Allora, la guerra non sarà corta, lo dice anche Walter Ricciardi, che è dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e adesso è consulente del Ministro della Salute, Roberto Speranza. Sentiamo la sua voce. Ce l'abbiamo? È bene che ci cominciamo ad abituare a una guerra lunga. La SARS, che era molto meno contagiosa, finì verso maggio-giugno. Questa è molto più contagiosa della SARS. Io ho l'impressione che se ci va bene, se in qualche modo lavoriamo tutti insieme, dobbiamo arrivare all'estate. E abbiamo in linea Riccardo Luna, che è l'organizzatore di Italia chiamò, appunto questo appuntamento a quale partecipiamo, questa diretta su YouTube. Riccardo, eccoci qua. Ciao Simone, buongiorno. Buongiorno allora. A tutti gli ascoltatori di Radio 24, benvenuti all'Italia Chiamò. Italia Chiamò, una raccolta fondi per la protezione civile. Ci dici, Riccardo, com'è nata? Però è nata 3 giorni fa, dicevo, quando ancora questo paese era già in emergenza, ma nulla rispetto a quello che stiamo vivendo adesso. Anche voi avete vissuto continue progressivi divieti e chiusure, ma da un lato lunedì l'abbiamo lanciata come idea. L'idea era per raccogliere fondi della protezione civile e contribuire a un racconto diverso dell'Italia, raccontare l'Italia della resilienza, del talento, del coraggio, mettere in scena i festival, i concerti, aprire i musei che sono chiusi restando a casa, sì. E quindi far vedere un paese connesso e unito e che riparte dalla cultura. Questa cosa è andata oltre ogni previsione. Oggi abbiamo 150 interventi, saremo tra poco a casa di Renzo Arbor, a casa di Francesco Favino, saremo con Fiorello, saremo con Giovanotti. Abbiamo tantissimi interventi anche nelle scuole che restano aperte con digitale. Questa sera tanti concerti con Ernesto Santi che ci aiuta. Ovviamente l'obiettivo è raccogliere fondi della protezione civile e raccontare questa Italia che supera tutta unita un momento così complicato. È molto bello, e vi ringrazio, questa interconnessione tra tutte le radio italiane, questo fatto che tutti insieme spingiamo dalla stessa parte. A me, Simone, prima di cominciare ho letto il tuo post di ieri sera, dove hai detto che hai paura e io ho spiegato io stesso che faccio parte del partito dei ottimisti, in questo momento ho paura, ma avere paura non vuol dire non avere coraggio. Il coraggio è il superamento della paura. Se non hai paura non puoi neanche avere coraggio, sei soltanto un incosciente. Sicuramente è un momento in cui la paura fa parte della vita di tutti noi, è importante fare il tuo coraggio. E devo dire che le immagini che arrivano dalla prima linea, dagli ospedali, i medici, gli infermieri, sono immagini che trasmettono grande coraggio. Qualunque altra cosa che stiamo facendo oggi è nulla rispetto a quello che stanno facendo loro. Noi ce la possiamo fare a restare a casa e andare avanti. Loro, tutti quelli che lavorano soprattutto nel settore della sanità in questo momento, e grazie Riccardo, e buon proseguimento di questa lunga giornata in diretta, lo ricordo, su YouTube, sul canale del MIBACT, per questa raccolta fondi per la protezione civile, a partire dai volontari del soccorso, ci scrive un'ascoltatrice. Buongiorno Simone, aggiunga i volontari del soccorso, mio marito è uscito ieri sera, iniziava alle 23, dovrebbe tornare a momenti, ma in realtà insomma non si sa in questa fase quando si può tornare. Tra le persone ovviamente che si occupano di tutto questo c'è Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. Anelli, buongiorno, benvenuto ai nostri microfoni, anzi bentornato a dire il vero. Buongiorno. Ci dà un quadro della situazione, perché qua abbiamo dei problemi che vanno dal personale sanitario infetto, si calcolava mi pare intorno ad un 12%, abbiamo 5.000 medici, 5.000 potenziali medici, lo abbiamo raccontato ieri, che sono bloccati perché è stato interrotto il percorso di abilitazione proprio a causa del coronavirus e sono dei neolaureati, e insomma delle difficoltà evidenti. Lo Spallanzani ieri chiedeva pubblicamente su Twitter una ricerca di personale per anestesisti e rianimatori, insomma non facile, Anelli, anche sotto questo aspetto. Sì, noi veniamo fuori da una stagione di tagli, non solo alla sanità ma anche alla formazione. Abbiamo avuto un lungo periodo in cui le borse erano sottodimensionate rispetto al fabbisogno e rispetto al numero dei laureati, e questo ci ha determinato oggi una riduzione degli specialisti, di quelli che lavorano, dei medici che lavorano all'interno degli ospedali, tra cui anche anestesisti e rianimatori. Oggi stiamo correndo un po' ai ripari. Il ministro Speranza e la ministra Grillo avevano già aumentato il numero di borse, però capisce bene che la formazione ha anche i suoi tempi. Oggi stiamo provando a questo punto a inserire anche gli specializzandi all'interno del sistema, cioè quelli che sono agli ultimi 2 anni. Con gli ultimi decreti questo sarà possibile, e le regioni e le ASL sono già partite per le assunzioni. Per le assunzioni, naturalmente. Anelli, c'è un problema che riguarda anche i medici di base, se ho capito bene? Sì, c'è anche un problema che riguarda i medici di base, perché contestualmente si verifica anche la cosiddetta gobba pensionistica, e cioè un numero di professionisti che contestualmente va in pensione, sì, nel giro dal 2018 al 2028 circa, no, però, il 70% Anelli, questo, allora, questo è un problema che abbiamo già sottolineato, sì, più di una volta. Quello che mi interessa è cosa succede adesso con i medici di base, perché immagino che ci sia un po', no, un po' di timore, il fatto che comunque negli studi a volte le persone ci vanno, ci si affollano, come ci si sta organizzando? Il problema oggi, accanto alla penuria dei medici, è il problema della protezione dei medici. I dispositivi di protezione individuale non sono ad oggi sufficienti a garantire i medici, ma non perché i medici debbano essere garantiti per la loro salute, perché loro, noi li chiamiamo super diffusori, cioè nel senso che per i contatti che hanno, per il numero di persone che incontrano, se si dovessero ammalare diventano, come dire, propagatori della epidemia. Per questo bisogna proteggerli, e oggi naturalmente questo si sta sempre più verificando. I numeri in Lombardia dicono che ci sono circa 700 operatori sanitari infetti dal coronavirus. Questo significa che ci sono 700 persone che noi avremmo potuto tenere al lavoro, ma soprattutto 700 persone che hanno incontrato malati e quindi la possibilità di diffondere il virus. Allora oggi urge trovare soluzioni organizzative se i sistemi di protezione individuale non sono sufficienti, e dall'altra parte adottare e dare dispositivi. Tra le soluzioni organizzative c'è quella di ridurre di accessi negli ambulatori dei medici di famiglia anche, e questo significa che gli ambulatori non sono chiusi, ma bisogna accedere per prenotazione. Prenotare, cioè non più in sala d'attesa. Traffico. Le 6:47 minuti e 25 secondi, le vostre voci mi raccomando, al 349-238-6666, sms, whatsapp, anche whatsapp audio, sì, voglio ricordare anche tra gli altri anche il personale della grande distribuzione organizzata, insomma tutti quelli che nei supermercati in questo momento lavorano e ci sono e ci consentono semplicemente di fare la spesa, di mangiare. Anche loro resistono con fatica, ma resistono, tra l'altro, costantemente a contatto con il pubblico. Ci vogliono misure più stringenti, dice il presidente della Regione Lombardia, Fontana. Sentiamo. Provvedimento che sicuramente dovrà essere riguardato, riesaminato. Abbiamo notato sicuramente che ci sono alcune discrasie, alcune cose che vanno corrette, ma il dialogo con il governo prosegue per cercare di migliorare ulteriormente il documento. Ancora Fontana, il tema è la salvaguardia della salute dei cittadini. Credo che i due principi che noi dobbiamo sempre avere, che abbiamo avuto dal primo momento, siano tutela della salute dei nostri cittadini e salvaguardia di tutti quei lavoratori che devono necessariamente andare a lavorare, perché fanno parte di filiere che sono imprescindibili per la vita quotidiana della nostra regione. E qua tutta la questione, no? Sul cosa chiudere e cosa non chiudere, questione sulla quale c'è stata oggettivamente qualche polemica. E allora, se non chiudi le aziende alimentari perché non le puoi chiudere, non puoi chiudere nemmeno, per esempio, chi si occupa di confezionamento, chi produce il packaging per l'azienda alimentare, per intenderci, tanto per fare un esempio. Non puoi bloccare la logistica, perché sennò come arriva il cibo nei supermercati? E così via. Insomma, non è così semplice. Uno dice chiudo tutto quello che non è necessario, però ricordatevi che la mela non arriva dal campo direttamente nel supermercato, eh? È un processo un po' più complicato. e quindi bisogna selezionare, fare estrema attenzione. Nel frattempo, come si diceva, sono partiti gli scioperi spontanei. Oggi ci sarà un incontro a Palazzo Chigi, sono convocati i sindacati, la ministra del lavoro Catalfo, ovviamente il presidente del Consiglio Conte. Il punto è cercare di capire come tutelare i lavoratori, soprattutto quelli del settore metalmeccanico, che si sentono un po' lasciati indietro. Ieri un ascoltatore ci ha scritto proprio su questo, insomma, in parte questa è una risposta, dice: in alcune aziende entriamo senza protezioni, non ci sono controlli, ci sono ambienti estremamente promiscui, come per esempio le docce, le mense. Il tema è far sì che tutte queste aziende si organizzino, no? Facciano in modo da rispettare le norme igienico-sanitarie, le nuove norme igienico-sanitarie che hanno a che fare con il virus. I primi risultati, dice il virologo Fabrizio Pregliasco, ci saranno tra 2 settimane. Sentiamolo. I risultati li vedremo almeno fra 2 settimane. Bisognerà valutare e vedere se appunto tutti gli italiani ingurgiteranno questa medicina amara, e bisogna però ingurgitarla tutta, e in questo senso riteniamo che appunto un'azione forte come quella individuata possa ottenere dei risultati. Anche già in questi giorni vediamo, per fortuna, pur nell'incremento dei casi, siamo nella fase espansiva, almeno non tantissime persone che sono dovute ricorrere alla terapia intensiva. Questo è un fatto, diciamo, positivo, che fa vedere già dei risultati, come dire, positivi delle iniziative precedenti. E a proposito di questo, voglio salutare il professor Piero Martin, che è professore di fisica sperimentale all'Università di Padova. Professor Martin, buongiorno, benvenuto. Ce l'abbiamo? Professor Martin? Sono qui, buongiorno. Eccolo. No. L'avevo persa per un attimo. Allora, professor Martin, insieme ad altri colleghi, insomma ad altri scienziati, ho visto che è stata realizzata addirittura una pagina Facebook dedicata alle analisi scientifiche, epidemiologiche, statistiche e alle proiezioni su come possono andare le cose dal lato del virus. Ha sentito cosa diceva il virologo Pregliasco un istante fa? Lei ha sovrapposto le nostre curve a quelle della Cina e della Corea, che cosa ci può dire? Dunque, allora sì, lei correttamente dice, cioè questa pagina dei colleghi l'hanno messa in piedi e vale la pena senza dubbio darci un'occhiata. Il virologo, credo abbia detto una cosa molto corretta, e d'altra parte lui è la persona titolata a farlo. Sì. Noi analizziamo i dati del passato. Credo che pochi di noi davvero si cimentino in previsioni che possono avere veramente una robustezza, perché richiederebbe una competenza anche di carattere medico. Sì, ricordiamo Martin che siamo in terra incognita comunque, quindi le previsioni si fanno e sono però più delle ipotesi che delle previsioni. Prego, però, che cosa immaginate? Ma guardi, adesso quello che è il nostro, diciamo, nemico numero uno, quello che tutti noi dobbiamo in qualche maniera combattere, è questo andamento esponenziale, no? L'andamento esponenziale è presto spiegato, un andamento che cresce molto rapidamente del numero dei casi, del numero dei ricoveri, in particolare di terapia intensiva per ogni giorno. Le faccio veramente un esempio molto, molto semplice, no? Supponiamo che io le faccia questa proposta: ti posso dare 1.000 euro al giorno per 30 giorni, oppure ti posso dare un centesimo oggi e poi domani te li raddoppio, te ne do 2 e dopo domani te ne do 4 e così via per 30 giorni. Ebbene, quale delle due sceglierebbe? Se sceglie la prima, avrebbe 30.000 euro vendita, pochi alla fine del mese. Se scegliamo la seconda, invece, a partire da un centesimo, alla fine del mese avremo oltre 10 milioni di euro. Questo è la progressione esponenziale, cioè qualcosa che ogni volta cresce in proporzione al suo valore di quel giorno. Okay. Ecco, noi dobbiamo assolutamente evitarlo. Finora i nostri casi e soprattutto i ricoveri di terapia intensiva, che da quello che capisco sono un po' il problema fondamentale, stanno ancora crescendo con legge esponenziale. Ci sono dei timidi segnali, devo dire, però è veramente troppo presto. Dovremmo aspettare ancora qualche giorno per capire se, diciamo, questa amara medicina di cui parlava il collega farà effetto. Noi crediamo senza dubbio di sì, tutti noi dobbiamo appunto fare il possibile E questa è la situazione. Quello che stiamo vivendo, allora, visto che siamo in chiusura, professore, quello che stiamo vivendo è ancora una fase di crescita esponenziale. Ovviamente l'invito è ancora quello che è stato fatto finora: state a casa, perché si eviti il più possibile la diffusione del virus, si appiattisca questa curva di crescita e non si abbia il picco, no? Molto semplicemente. Allora, se posso dire, noi in realtà nel numero dei casi giornalieri effettivamente vogliamo arrivare presto a un picco e poi una decrescita. Questo sarà veramente, osservare una decrescita del numero di casi giornalieri sarà il segnale che tutti noi possiamo notare guardando ogni sera i dati delle 6 per capire che ci stiamo veramente avvicinando a un miglioramento. Dovremo osservare per 3-4 giorni di fila un calo del numero dei casi giornalieri. E quello sarà il momento, esattamente. La ringrazio. No, dobbiamo veramente chiudere. Grazie al professor Piero Martin per essere stato con noi. Ci chiedete come si chiama la pagina Facebook. Si chiama Coronavirus, dati e analisi scientifiche. Abbiamo parlato poco della questione Lagarde, della questione BCE. Ci arriviamo tra un attimo in rassegna stampa. A dopo.